na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Me basta con un cholo que busca biscos y me ami. Me guan cholo que me y el pídiga de hoy. Y un amor que te da hoy. De que hoy me dai. Y es la beta mía. Yo lo vendo todo. Me basta con un cholo que busca biscos y me ami. Me guan cholo que me y el pídiga de hoy. Y un amor que te da hoy. De que hoy me dai. Y es la beta mía. Yo lo vendo todo. Cuando está porque me ilumine toda la serata. Senza de día la vida mía no es que buena. Como la prima folla caduta en primavera. Yo soy un turbo si cuando perdo una cosa cara. Y te sentí de mi la cosa più bella della vita, come una bella cosa vissuta su sta terra, come un viento cade dalla pezza fresca, io te do un lugar e la porca di vincia, sai. Me basta con un solo chi non capisco se mi ami, me guardi solo chi me e ti dica te voglio, l'amore cade da e te chiude quello che mi dai, di la bella mia, io lo vedo do. Me basta con un solo chi non capisco se mi ami, me guardi solo chi me e ti dica te voglio, l'amore cade da e te chiude quello che mi dai, di la bella mia, io lo vedo do. Io non posso stare tranquillo e ben con mie. La vita è stata sana senza limite per tutti. Ma immagino una vita felice senza te mie. Non c'è ragione di vivere con la mente che penso a noi. E se non penso con mio vai e se ne perdo non mi dà vinto fino a quando non mi riavrà per cesi mia. Come una cosa cara cade in solo mia. Per cesi che maggio fissato. Me batto con un cialo chi non capisco se me ami. Me guardo cialo chi me e fidi cade o io. L'amore cade da o ed è chiude quello che mi dai. Di è la bella mia io lo vedo do. Me batto con un cialo chi non capisco. Scusa me ami, me quando c'ho le chime e fini cade o io l'amore cade da o e chiude quello che mi dai, è la bella mia, io lo vedo do. E sento lo calore dell'amore quando stai con me. Ogni giorno mi lasci senza forza, senza l'energia. Faccio quante minti e te fricoli tutta su di mie. E l'emozione che mi dà lo grido d'amore. Io ti parlo per capirmi ma tu niente da fare. Se mi scrivi le l'amore solo così mi sa pensare. Se ti parlo dolcemente mi inizia a mangiare. Non voglio te dici che dire ma soffrire ed è normale. Mi basta con un cialo chi non capisco se me ami. Me guardi sulle chime e fini cade o io. L'amore cade da o ed è chiude quello che mi dai. Di è la bella mia io lo vedo do. Me basta con un cialo chi non capisco se me ami. Me guardi sulle chime e fini cade o io. L'amore cade da o ed è chiude quello che mi dai. Di è la bella mia io lo vedo do.